This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. E ci siamo, buonasera, buon pomeriggio, cosa possiamo dire? Buon pomeriggio a tutti, va bene? Ciao Rosario, ciao Nicola. Ciao. Ciao, vabbè. Stiamo bene. Siamo rientrati, insomma, dopo una dura vacanza estiva. Gliel'abbiamo fatta anche sto giro, dai, cioè, ci stava, e che cavolo. I sacrificati della vacanza, vabbè, è durato 2 mesi, insomma, da luglio che non ci sentiamo in radio, vero Babbe? Eh sì, è un bel sacrificio stare lontano dalle nostre frequenze. Ricordo che siete su Radio Città del Capo 94.7 96.25, oppure siete in streaming da rcdc.it. Questa è This is not an exit, secondo anno per noi, abbiamo cambiato leggermente l'orario di trasmissione. Non più dalle 16 alle 17, bensì dalle 15.30 alle 16.30, vabbè, cambiato poco. Però giusto per uscire dalla monotonia, insomma, ci sta, dai. Ma ascolta, Babbe, ma oggi di che cosa si parla? Giusto per iniziare col botto anche a sto giro. Beh, tanto per cominciare ricordiamo che il periodo di osservazione, di digressione, di opinioni, dai, opinioni libere nostre, non strane, sono sempre le stesse, il periodo è sempre lo stesso, 88-93, beh... Partiamo col botto a modo nostro. Tra i miei idoli adolescenziali o tardo adolescenziali c'era Ian McKay e i suoi Fugazzi. Ho pensato bene, perché non ripartire proprio con loro? Cosa c'è di meglio? Gran personaggio Ian McKay. Refine to rage and to find ourselves. Eccoci qua, siamo sempre in diretta, siete a This Is Not An Exit. Ricordo che questa è una puntata dedicata ai Fugazzi, ma abbiamo anche un blog, si chiama thisisnotanexit.alterviste.org, e il post di oggi si chiama I Fugazzi e l'ideologia, perché quanti gruppi sono stati connotati da ideologie? Un sacco, ma quanto loro? Pochissimi. Beh, sicuramente parliamo di un gruppo capostipite di un certo stile, nella anti-rock, anti-star system, sicuramente anti-rockstar, e loro i Fugazzi erano davvero quello, venivano da un'esperienza straight edge con i Minor Threat, e quindi comunque avevano già sulla pelle cosa significa far parte di un certo giro. Poi hanno preso questo nome molto esotico, diciamo, no? Che letteralmente significa fottiti, caduti in un'imboscata, ficcati in un sacco nero e mandati a casa. Fuck it up, got ambushed, zipped in. Perché praticamente è la situazione dei soldati americani in Vietnam, quando si trova in una situazione davvero assurda, insomma, a rischio di, si diceva così. Quindi era un nome esotico anche per ricordare comunque le innumerevoli guerre fatte dagli Stati Uniti anche in, insomma, nel resto del mondo. Quindi c'era il discorso prettamente musicale, ma non solo, quindi anche molto politico, antimilitarista sicuramente, e dal titolo del gruppo si capisce tanto. D'altronde era una generazione di persone, gli Amekei, Ghi Picciotto, Joe Lally, Brendan Canty, cresciuti negli anni 60-70, quindi con l'incubo del Vietnam, quantomeno tu nasci nel 62-61 e per tutta la tua gioventù senti parlare di guerra e penserai: accidenti, quando compirò 18 anni sarò drafted, dovrò fare la visita di leva e poi andrò in Vietnam a combattere. E poi invece, puff, per fortuna, negli anni 70 il Vietnam sparì, ma appunto il concetto di essere fottuti ad un certo punto, di essere in una società per certi versi fottuta, era rimasto. Comunque sia, in questa situazione fottuta, ricordo che siamo ormai nell'88, il Vietnam alle spalle, ma la società americana era cambiata parecchio. In questa società fottuta, appunto, Fucked Up Situation, Fugazzi, il nome del gruppo, I Fugazzi risposero al nichilismo, venivano dallo straight edge, abbiamo detto straight edge, volevo dire un sacco di cose, sì. Poi magari approfondiremo, però loro diedero una risposta, furono tra i primi, tra i pochi gruppi a dare una risposta, ad avere una loro ideologia, e la si può sintetizzare per certi versi in controllo totale su tutto quello che aveva a che fare con la loro musica, con la loro vita. Non dimentichiamo che vivere per i Fugazzi era suonare, suonare per i Fugazzi era vivere, nel senso che era la loro principale fonte di introito e quindi doveva tutto essere sotto controllo. Il discorso non era solo legato alla guerra, era legato anche al mondo corporativo americano. Grandi corporation in tutti i campi, soprattutto anche nel loro campo, quello musicale. Campo musicale che era dominato, come abbiamo spesso detto l'anno passato, dalle grosse compagnie discografiche che ragionavano sempre in termini industriali, quindi grandi numeri acquisivano magari grossi gruppi che erano diventati gruppi di un certo successo a livello locale oppure a livello alternativo, indipendente. Bene, questo i Fugazzi hanno sempre cercato e sono sempre riusciti ad evitarlo, non sono mai stati messi sotto contratto perché avevano anche una loro etichetta, si chiamava Discord, era stata fondata ai tempi di Minor Threat, quindi parliamo degli 80, quando Ian McKay era poco più che adolescente, aveva 18-19 anni, ma aveva già capito che aria tirava grazie appunto all'esperienza dell'hardcore. L'hardcore insegna tanto in questo campo, l'autoproduzione. Essendo poi facendo parte poi del giro più punk hardcore, diciamo che hanno preso a piene mani ciò che poi ruotava lì attorno, quindi Do It Yourself a tutti gli effetti, che ancora adesso viene vissuto in maniera totale, cioè quindi comunque autoprodursi e quindi essere padroni di tutto quello che ruota attorno al gruppo, eccetera. Evidenzio un punto che secondo me è fondamentale. Il suonare è vita, ma fondamentalmente è un'esigenza. Quindi comunque è una questione più vitale, non lo si fa né per lavoro o per chissà cosa, cioè, ovviamente ti dà questo sostentamento economico, che per carità, però comunque quel sostentamento economico è giusto, cioè, quindi comunque lo fai perché senti di farlo e lo fai a modo tuo, senza che nessuno si metta in mezzo, quindi poi come il discorso corporativo che praticamente ha preso a oggi, ma anche al tempo iniziava, insomma, quando sentiva profumo di dinero correvano tutti in maniera totale, quindi non è assolutamente... è stato preso anche il punk, l'hardcore e tutto il resto, oggi in maniera più forte, prima si iniziava, insomma. Sottolineo un'ultimissima cosa: l'unico gruppo, adesso facendo il parallelo italiano, ad aver fatto la stessa identica cosa in anni più o meno simili sono stati in Negazione, stessa identica storia, cioè ovviamente appoggiandosi ad altre etichette, per carità, però anche loro sono stati padroni di organizzarsi tour, eccetera. Questo ha dato anche sia il pregio e quindi comunque l'essere famosi a livello underground, ma anche il fatto che comunque dopo un po' non gliela facevano più, e come abbiamo sentito nell'ultima intervista con Marco, insomma, si sono dovuti sciogliere perché era una roba assurda e devastante. Beh, insomma, misero comunque i fugazzi, stiamo parlando, a sistema tutte queste cose di cui abbiamo parlato, cioè do it yourself, il fatto che comunque non era impossibile, è vero, negli anni 80, 80, soprattutto all'inizio dell'hardcore, l'idea predominante era quella che non ci si la poteva, non gliela si poteva fare. Sì, il sistema era troppo screlotizzato, troppo forte, quindi era molto nichilista anche come approccio. Veniva dal punk anche questo, cioè ci si, poi il punk era già morto, è stato come assorbito dalle grandi compagnie, quindi sì, la disillusione era pressoché totale. Ma al punto che parecchi gruppi al tempo, soprattutto hardcore, auto immaginavano. Sì, totalmente, perché erano consci del fatto che era impossibile. Però i Fugazzi, va riconosciuta una cosina, riuscirono a localizzare addirittura le autoproduzioni. Perché comunque non era una passeggiata autoprodurre a livello mondiale determinati prodotti, cioè, perché negli anni 80 adesso è un pochino molto più semplice, ma in quel periodo lì insomma era tutto molto più complicato per via della comunicazione e via dicendo, quindi non era proprio una passeggiata, quindi bisognava organizzarsi e avere anche una certa esperienza, contatti e via dicendo, cosa che poi fecero dopo moltissimi anni. Oggi lo fanno anche in Appandet, gruppo blasonato eccetera, poi loro sono completamente sono usciti fuori da quei cliché e via, sono legati poi al music business, perché poi di questo si parla, cioè un modo come un altro per cercare di estraniarsi da questo casino dettato dalle major, insomma. E poi entrando nello specifico, sono stati forse i primi a non mettere merchandising in giro, perché comunque dicevano che avevano bisogno di una persona che era, no, lì a lavorare, quindi non volevano assumere altra gente, insomma, non perché non volevano farla lavorare, perché comunque era sempre un costo per il gruppo che loro comunque non sentivano di affrontare. Avrebbe l'uso del loro controllo. Eh sì. Poi comunque la storia dei 5 euro, dei 5 dollari per concerto, anche se a volte se magari andavano sulla costa pacifica, magari il costo del biglietto aumentava, ma giusto per i costi, insomma, che loro avevano per il trasporto. E poi comunque i CD non ha più di 8 dollari. E loro proprio imponevano il prezzo politico dei CD. Insomma, cose che nei primi anni 80 poca gente a livello proprio quasi mondiale riusciva a fare. Fa sorridere perché a oggi chi insomma fa parte del giro do it yourself, insomma, ripercorre e ripete questa strada, che poi alla fine è la strada maestra, quindi dei prezzi ben dettati che comunque esulano dal guadagni facili e via da dei prezzi esageratamente pompati. E ne dobbiamo essere grati di questa cosa, è una roba per me molto sentita e hanno aperto veramente una nuova strada, ecco. I never thought you sempre This Is Not An Exit, sono le 15:54 minuti primi. Ricordo che abbiamo cambiato orario, ma siamo sempre noi, qua siamo col dottor Scarpa, con il dottor Corrias, in diretta, sempre a Radio Città del Capo. E stiamo parlando di un fenomeno che per noi è stato molto molto importante, come diceva Nicola, è stato importante anche dal punto di vista ideologico, estetico, filosofico. Abbiamo ricordato del loro concetto di do it yourself, avevamo ben capito che per cavarsela non era impossibile, ma era richiesta una fortissima etica del lavoro, quasi da puritani, e addirittura il controllo totale su tutte le loro attività, a partire dall'etichetta, per finire con i rodi. Ricordo che i Fugazzi andavano in giro per gli Stati Uniti con i loro rodi, la loro strumentazione, il loro tecnico del suono, e soprattutto agli inizi la Discord House, che era la casa dove l'etichetta aveva i suoi uffici, fungeva anche da, diciamo, casa comune. Sì, oltre che casa, vero? Giolelli, bassista dei Fugazzi, era uno dei rodi della Discord, e abitava appunto nella Discord House. Poi, giusto per ricordare anche qualche altro che comunque in America faceva lo stesso discorso, ricordiamo pure Black Flag, che abbiamo parlato qualche volta, che anche loro andavano in giro, e l'etichetta, la SST, che comunque faceva lo stesso discorso, solo che magari venivano dalla zona dove l'hardcore punk, quello californiano, era molto, no? Perché veniva da una scuola di Kennedy e quant'altro, quindi molto più pompato. Loro invece venivano da una città, Washington DC, che era un po' fuori, era un po' in periferica, è la capitale degli Stati Uniti, sappiamo, però comunque a livello musicale non è, no? Cioè, poi comunque ricordiamo che nei primi anni 90 comunque una città molto difficile, addirittura è stata battezzata la città omicidi, perché era la prima città degli Stati Uniti ad avere, cioè, il numero più alto di omicidi, quindi una città molto difficile, e quindi anche venire da una periferia musicale comunque non era manco facile, non era insomma la California o la New York degli anni 80, ecco. Complicatissimo. We'll be right back. imitation. Beh, insomma, sono le 16 e un minuto qui a This Is Not An Exit. Stiamo parlando, abbiamo detto, di Fugazi, la parentela con la SST, l'etichetta dei Black Flag, era evidente. Io direi Discord uguale a SST meno eroina, nel senso che parecchi dei gruppi dell'SST, come tanti del periodo hardcore, abusavano di sostanze e questo ovviamente non contribuiva al buon funzionamento del tutto. Uno dei motivi per cui appunto gli MK scrisse nell'80 la canzone Straight Edge era per la morte di un suo amico per overdose. Era una cosa strettamente personale, poi se ne è fatto tutto un movimento, sua insaputa e sua non proprio insaputa, comunque non era la sua volontà che diventasse un movimento, ma la filosofia di quella canzone in parte traspare anche dall'atteggiamento che avevano nella gestione dei loro affari e in quelli di tutti i loro gruppi associati. Ricordo che la Discord in particolare si focalizzava soprattutto, come diceva prima Rosario, sui gruppi di Washington DC. Era un'etichetta che tendeva ad avere una memoria, diventava una memoria storica di una scena, quella di Washington, che era ribolliva dai tempi di Bad Brains, ma altrimenti come tante altre. Non so quanto avrebbe potuto essere conosciuta in giro per il mondo. Il loro forte è stato quello. Sì, se vogliamo dire giusto qualche nome: Nation of Ulysses del Jens Venonius, poi Make Up negli anni 90. Beh, comunque sì, gruppi che rimanevano nell'orbita di Washington, poi comunque con la Discord Record hanno avuto anche la loro bella distribuzione mondiale. Ricordiamo che la Discord in Italia era distribuita dalla Wide Records di Pisa, nobilissima, purtroppo scomparsa etichetta appunto pisana. Però è interessante sta cosa, nel senso che l'unire poi alla fine ai tempi sia lo straight edge che poi a oggi va avanti, anche è sinonimo di serietà, cioè è una roba, è una regola non detta che va avanti da penso quel periodo là, dove comunque ogni gruppo o la maggior parte dei gruppi straight edge hanno un certo tipo di comportamento e di attitudine nel voler fare le robe, le cose fatte in un certo modo, senza perdersi in incavolati, insomma, giri di parole e perdite di tempo inutili. Tant'è che poi alla fine anche i Fugazi si concentravano molto su poche cose ma fatte bene, e sta alla base di tutto quanto. Voi per questo che comunque non sono stati fatti né video né merchandising di cui si parlava prima e via dicendo, arrivare direttamente all'essenziale curandolo totalmente, gran scelta. We'll be right back. Beh, insomma, questo approccio alle cose in parte funzionò, anzi, funzionò piuttosto bene. Ricordiamo che per loro era centrale essere sul palco. Fecero circa un migliaio di concerti, forse di più, nell'arco di 16 anni di carriera. E ne saltarono appena due. Successero cose, se andate a cercare in giro per la rete, anche molto particolari, come immagino succedono a tutti i gruppi on the road. Tipo a Dallas a un certo punto suonavano... Ricordo che i Fugazi suonavano spessissimo in posti occupati, in aule dei college, oppure addirittura, se non trovavano posti nelle città a cui loro interessava suonare, si rivolgevano ad associazioni, addirittura a lobby di logge massoniche, gli noleggiavano lo spazio e poi gestivano tutto loro e poi lo sfasciavano, pagavano l'affitto e via. Invece in questo spazio occupato a Dallas, se non ricordo male, praticamente a un certo punto arrivarono i pompieri con la polizia, bloccarono il concerto perché non c'erano vie d'uscita. E allora i Fugazi per un'ora sospesero il concerto e, aiutati dai quelli che gli organizzatori, anche dai ragazzi del pubblico, crearono delle vie d'uscita, ma non ci fu nulla da fare. Col piccone aprirono le vie d'uscita. Con l'altro adesivo. Ok. Però i poliziotti non volevano farli suonare. Allora loro suonarono dentro in un posto vuoto, aprirono i portoni di questo vecchio magazzino e i ragazzi rimasero fuori ad ascoltare in un'atmosfera totalmente surreale. Se andate sul sito della Discord Records e cercate i concerti di Dallas, ci sono le foto dei ragazzi che pogano fuori dal capannone e dei Fugazi che suonano dentro nel capannone vuoto. L'importante era suonare. Primi, quasi 14, siete sempre in diretta su Radio Città del Capo, stiamo parlando dei Fugazi qui a This Is Not An Exit, e chissà cosa sarebbe successo se i Fugazi, una volta che il vecchio manager degli Stones e anche il vecchio ingegnere del suono di Davis si presentò sul loro palco per offrirgli addirittura un assegno in bianco, cosa che aveva fatto nella sua carriera solo appunto con gli Stones, loro declinarono. Avrebbero fatto probabilmente, chi lo sa, molti più soldi. Però era un argomento delicato. L'hardcore è famoso anche perché Queste tematiche sono sempre state dibattute con una veemenza pari alla violenza con la quale veniva suonato. Sì, qualcuno invece ha avuto la malcapitata idea di affermare il contrario su una rivista, possiamo pure dire rumore, insomma di una decina d'anni fa. Parlo dei Blink 182, che dissero appunto che i Fugazi sono degli stronzi perché non approfittavano della loro notorietà, insomma, per farsi i soldoni, insomma i dollari. E poi praticamente quando arrivarono a Bologna per fare l'Independence Day, Blink 182 furono cacciati via dai kids con le creste, che praticamente li prese proprio a pietrate, e io mi ricordo che c'ero, e proprio perché comunque i ragazzi si ricordavano dell'intervista fatta sul rumore, ma voi chi siete a dire cose del genere, vi meritate soltanto di fare due pezzi e poi di scappare via. Mi ricordo le ragazzine erano venute per vedere Blink 182 a piangere perché i kids infuriati l'avevano fatti correre via, insomma. E insomma, oh, chi di stronzate perisce, di stronzate ferisce, insomma, no? Bella la rovescio. We'll be right back. non è che i Fugazi ce l'avessero con i Blink 182, per inciso un gruppo di ragazzetti che, come dire, erano, potrebbero essere stati figli dei Fugazi per età, e magari non avrebbero mai capito, a forza di ciucciare dal canale MTV, quello che i Fugazi avevano realmente da dire, che era, detto in soldoni, controllate tutto quello che potete, dedicatevi in tutto quello che potete alla vostra passione, al suonare, che è un ottimo modo anche per dare sfogo alla propria creatività. I Fugazi, ricordo che partivano dall'hardcore, ma lo hanno evoluto come pochi, e poi, come il nostro buon Nicola ci racconterà, non solo suonavano, si dedicavano a un sacco di altri aspetti. Sì, infatti è curioso, poco fa, cioè, si osservava come addirittura si facevano addirittura i biglietti d'entrata. C'è un esempio di una pistola completamente ritagliata e scritta totalmente a mano. Cioè, arrivare a tal punto era una roba quasi delirante, nel senso che comunque, ripeto, è un impegno, non c'è, devi vivere 24 ore su 24 il progetto totalmente, un full immersion completo, quindi comunque vivi i Fugazi a 360 gradi. La musica sì è importante, ma diventa per certi versi quasi secondaria, nel senso che comunque c'è dietro tutto, è un blocco unico, un bel polpettone che va gestito e lavorato, eccetera, perché non c'è nessuno che, meno male, ti dà una mano a risolvere alcuni problemi anche tecnici che a volte sono complicati, ecco, quindi comunque c'è bisogno del suo tempo e via. Cioè, ricordo anche per insomma esperienze fatte in prima persona, anche per organizzare un tour di poche date in pochi stati, cioè c'è una lavorazione di almeno 6 mesi tra contatti eccetera. Ora non oso immaginare in quegli anni là, dove deve essere tutto più assurdo, complicato, dilatato nel tempo e negli spazi, quindi gran voglia e grande attitudine sicuro, cioè questo merita rispetto assoluto. Siete sempre su This is not an exit, la puntata va a concludersi, sono le 16:25 minuti primi infatti, qui a Radio Città del Capo, quindi salutiamo tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori, non prima di ricordare che sabato prossimo saremo sempre qui, sempre alle 15:30, nuovi argomenti sempre sullo spazio temporale tra l'88 e il 93, uno spazio che non ci aspetteremo di stancare, di stancarci, di approfondire ed analizzare. Speriamo di non essere troppo boriosi o spocchiosi, ma al massimo ce lo potete sempre dire. Ricordo che abbiamo un blog, appunto, si chiama thisisnotanexit.alterevista.org e abbiamo anche una pagina Facebook. Se cercate This is not an exit RCDC ci trovate lì, potete insultarci, augurarci buone vacanze che non abbiamo fatto, cose così, insomma, che dite? No, vabbè, non vorrei dire, insomma, i fans dei Blink 182, esatto, di preoccuparsi, che comunque noi... C'è un certo astio. No, ma ogni riferimento era puramente casuale. Anzi, a me è dispiaciuto che le ragazze non hanno potuto vedere il concerto, hanno anche loro il diritto di vedere il concerto. Però, insomma, se te li vai a cercare, a volte la provocazione non paga, ecco, quello... Però un po' spocchiosi lo siamo, dai, Mancia, ma ci sta... Va bene. Salutiamo tutti. Ciao Rosario, ciao Nicola. Ciao.